Mango Tart legge Man A Cold di Sen Lin Yu. Capitolo 20. Draco, perché sei qui? Rantolò lei appena riprese conoscenza. Lui si avvicinò e le toccò il fianco con cautela mentre si ritraeva sulla sedia. Mi sono dovuto materializzare attraverso l'Europa per colpa tua, disse con un ringhio basso. La rabbia nella sua voce era palpabile. Hermione lo fissò. La smaterializzazione attraverso il continente era quasi impossibile. Richiedeva o di saltare così tante volte che una persona esauriva la magia e doveva fermarsi, o una quantità così tremenda di concentrazione che era praticamente impossibile sopravvivere. La maggior parte delle persone che si materializzavano per più di qualche paese si spaccavano a morte. Se davvero lo aveva fatto, avrebbe dovuto essere quasi morto per esaurimento della magia. In quel caso non c'era da meravigliarsi che il Menor avesse tremato. La potenza e la concentrazione di magia necessarie per eseguire con successo un tale salto sarebbero esplose come l'onda d'urto di un boom sonico. Probabilmente c'era una stanza nel Menor ridotta in schegge. Questo è completamente impossibile, balbettò Astoria. Sottovaluti tuo marito, Tori, rispose lui con un tono freddamente assassino. Non molto devoto da parte tua. Oh, sei qui per causa mia! La voce di Astoria si fece maliziosa. No, non lo sei. Sei qui per colpa di quella sangue sporco. Mi hai fatto una fattura. Mi hai scaraventato contro un muro. Hai ucciso Graham Montague. Tutto a causa di quella sangue sporco. Sì, l'ho fatto, disse Malfoy. Ho fatto tutte quelle cose perché lei è l'ultimo membro dell'Ordine della Fenice e questo significa che lei, a differenza di te, è importante, infinitamente più importante, decisamente più importante di Montague. Sapevi che il Signor Oscuro la fa portare regolarmente davanti a sé per ispezionare i suoi ricordi? Gli occhi sono piuttosto utili quando si esegue la legimanzia. Astoria impallidì e Malfoy continuò a parlare con voce fredda e mortale. Ho cercato di essere paziente con te, Astoria. Sono stato disposto a trascurare il tuo comportamento indecente e le tue piccole interferenze. Ma ricordati che, a parte essere in qualche modo decorativa, sei inutile per me. Se ti avvicini di nuovo a lei, o le parli, o usi il tuo status di signora di questo Menor per sfondare una delle mie protezioni, ti ucciderò e lo farò lentamente. Forse nel corso di una serata o due. Questa non è una minaccia, è una promessa. Vattene, via dalla mia vista! Astoria emise un singhiozzo terrorizzato e fuggì dalla stanza. Malfoy rimase in piedi respirando profondamente per diversi secondi prima di voltarsi di nuovo verso Hermione. Si avvicinò lentamente, poi si inginocchiò e le inclinò il viso per guardarle di nuovo gli occhi. Le pupille sono di dimensioni diverse, disse dopo un momento. Dopo aver applicato l'essenza di dittamo, manderò a chiamare uno specialista per vedere se c'è altro da fare. Hermione lo fissò. Non hai bisogno degli occhi per la legimanzia, disse con voce legnosa. È solo più facile. Non importa se sono cieca da un occhio. Sentì le dita sul suo viso che si agitavano debolmente e la mascella di lui che si serrava. «La considero una questione di convenienza», rispose lui dopo un po'. Passò leggermente il pollice sullo zigomo di lei mentre continuava a studiarla. Lo fissò di nuovo. Sembrava abbattuto, ma forse solo perché lei aveva la vista offuscata. «Come hai fatto a smaterializzarti dalla Romania?» chiese lei. Lui fece un sorriso stanco. Un'abilità acquisita con i complimenti del signor Oscuro, anche se non credo che ne avesse idea all'epoca. Era intesa come una punizione. Hermione aggrottò le sopracciglia. Non aveva idea di quale tipo di punizione potesse comprendere l'effetto collaterale di permettere la materializzazione attraverso il continente. Una specie di magia nera orribilmente oscura. Che tipo di maledizione? Non era una maledizione, era un rituale. E non mi va di parlarne, disse lui interrompendola bruscamente. Come sapevi che avrei conosciuto gli incantesimi? Disse quando lui continuò a fissarla. Eri una guaritrice, rispose, scrollando le spalle. Se ti avessi portata al San Mungo, penso che la pressione ti avrebbe distrutto l'occhio. Il tempo era essenziale. Dove hai imparato a guarire? Chiese ancora lei, ripensando a tutti gli incantesimi e le diagnosi che aveva saputo eseguire. Una smorfia gli tirò l'angolo della bocca. Sono stato un generale per anni. Ho imparato le cose lungo la strada. Era un'abilità ovvia da sviluppare. Non per tutti. Hermione aveva cercato in molte occasioni di insegnare ai membri dell'ordine qualcosa di più degli incantesimi di emergenza di base per la guarigione, ma la maggior parte di loro era stata riluttante a imparare oltre l'epismendo. Sì. Beh, sono dalla parte vincente. Ovviamente abbiamo fatto scelte strategiche migliori, rispose lui con voce fredda mentre ritirava le mani. Era un incantesimo diagnostico insolito da conoscere, insiste Hermione, ignorando il suo commento. È stata una lunga guerra. Era ancora inginocchiato davanti a lei. Hermione si guardò il grembo per un minuto, poi tornò a lui. A causa della sua visione sbilanciata, cominciava a sentire un gran mal di testa nelle tempie. Hai un talento naturale per la guarigione. In un'altra vita avresti potuto essere un guaritore, disse. Una delle grandi ironie della vita, disse lui distogliendo lo sguardo da lei. Pensò che l'angolo della sua bocca si fosse mosso debolmente, ma forse era solo un difetto dovuto alla vista. Suppongo di sì. Abbassò di nuovo lo sguardo sulle sue mani. Aveva i polpastrelli macchiati di sangue. Anche i suoi lo erano. Ci fu un crack e Topsy apparve con una piccola fiala di essenza di dittamo che consegnò a Malfoy. «Fai riparare la porta!» ordinò lui all'elfo, dandogli appena un'occhiata mentre si voltava di nuovo verso Hermione. Lei cominciò ad alzarsi. «Dovrei sdraiarmi, così non mi muovo!» disse. Aveva un equilibrio precario e le mani e le braccia le tremavano. Non volevano sostenere il suo peso. Sprofondò di nuovo sul pavimento e si morse il labbro per la frustrazione. Forse si sarebbe semplicemente sdraiata a terra. Una mano si chiuse intorno al suo gomito e la tirò in piedi. «Non ti curo sul pavimento», disse Malfoy con voce fredda mentre la tirava dall'altra parte della stanza e poi la spingeva sul letto. «Sdraiati qui!» Sentì qualcosa dietro di sé e scivolò sul letto. Spinse il cuscino di lato e si sdraiò del tutto. Malfoy si chinò su di lei, fiala in mano. Il viso andava e veniva, messo a fuoco ogni volta che lei sbatteva le palpebre. Scuro, luce. Buio, luce. «Quante gocce?» chiese. Hermione esitò. L'essenza di dittamo era costosa. Quando era guaritrice aveva dovuto razionarla, pesare attentamente il beneficio contro il costo. Una goccia ogni 2 ore per i prossimi giorni è l'ideale. 3 gocce andranno bene, disse infine. Cosa ti farà? Chiese lui. Sarò probabilmente in grado di distinguere i contorni e rilevare i colori entro pochi metri, rispose. Malfoy si chinò in avanti e usò la mano destra per tenerle leggermente aperto l'occhio sinistro mentre le faceva gocciolare una goccia di essenza nell'occhio. Bruciava. Chiuse immediatamente gli occhi per evitare di sbattere le palpebre. La mano sul suo viso svanì. Tornerò tra 2 ore e mi assicurerò che Astoria stia alla larga. Sentì i suoi passi che si allontanavano e alzò la mano per tenere l'occhio sinistro chiuso in modo da poterlo guardare mentre se ne andava. Inciampò leggermente quando fu vicino alla porta, come se fosse instabile sui piedi. Hermione chiuse di nuovo gli occhi e rimase immobile. «Non piangere, non piangere», si disse. «Sprecheresti il dittamo». Malfoy riapparve 2 ore dopo con uno specialista, un uomo anziano con abiti verdi. L'espressione del guaritore era tirata, ma sembrava determinato a nascondere il suo disagio. Guardò appena Hermione. «Le perforazioni della sclera sono un brutto affare», disse con voce ansimante mentre evocava una sedia accanto al letto e guardava Malfoy. «Non sempre si può fare molto. Gli incantesimi curativi di base non sono un granché per preservare la vista. Dovremmo vedere cosa c'è da fare. È stata lei a dirle quali incantesimi usare». Malfoy fece un breve cenno e si appoggiò al muro. Il guaritore si voltò verso Hermione e lanciò un incantesimo diagnostico oculare che non conosceva. Fissò i nastri di colore che fluttuavano sopra la sua testa, ma non sapeva come leggerli. Il guaritore rimase in silenzio per diversi minuti mentre manipolava l'incantesimo. «Beh, questo è un lavoro davvero eccezionale», disse lui in tono sorpreso, dopo aver dato all'incantesimo un ultimo colpetto con la punta della sua bacchetta e avervi mandato piccole scintille di luce. L'incantesimo tremò e si contorse in risposta. «Che incantesimi gli hai fatto usare?» le chiese guardandola. «Sclera Sanentur», rispose lei. Lui alzò le sopracciglia. «Probabilmente avresti perso la vista se avessi usato incantesimi più comuni. Dove hai imparato questo tipo di guarigione?» chiese con voce stupita. «Austria, Francia, Albania e Danimarca», disse Hermione, la voce sommessa. «Ho viaggiato. La mia specialità era curare le arti oscure e le ferite accidentali». «Davvero?» Il disprezzo nel comportamento del guaritore verso Hermione svanì e la studiò pensieroso. «Ho fatto domanda per studiare in Albania, nel 64. Non sono riuscito a entrare. Il mio lavoro con la bacchetta non era abbastanza preciso. Bellissimo ospedale. Il loro dipartimento di magia antica era il migliore d'Europa». «Lo so», disse Hermione, la voce malinconica. «Peccato che i terroristi l'abbiano distrutta durante la guerra», disse il guaritore. «E poi, beh», guardò i vestiti e i polsi di Hermione e arricciò il labbro. «Pensavo fossi uno di loro». «Non uno che ha mai attaccato un ospedale», rispose lei. «Era stata una delle tattiche preferite di Voldemort. Attaccare luoghi che avrebbero dovuto essere neutrali e incastrare i terroristi della Resistenza. Aveva contribuito a portare il pubblico dalla sua parte e a spingere la Resistenza ancora più sottoterra. Ricordava quando aveva saputo che l'ospedale albanese era saltato in aria. Non c'era stato quasi nessun sopravvissuto. Tutti i guaritori che l'avevano fatto da mentori erano morti tra le macerie. La Resistenza in Albania era scomparsa poco dopo». Lo specialista continuò a studiare la lettura diagnostica su Hermione per molti altri minuti prima di farla sparire con un colpo di bacchetta. Lanciò degli incantesimi che lei sentì penetrare nell'occhio e la sensazione di freddo crebbe stranamente verso la parte anteriore del cervello. Poi il guaritore si chinò in avanti e aggiunse una goccia di essenza di dittamo. «Credo che tu possa recuperare completamente. Tieni le luci basse e applica l'essenza ogni 2 ore durante il giorno e una goccia in più appena prima di andare a dormire per le prossime 2 settimane. Fai così e penso che alla fine non ci sarà nessun danno alla vista a lungo termine». Hermione lo guardò con un occhio solo mentre si alzava e si voltava verso Malfoy, raddrizzandosi pomposamente la veste. «Devo dire che ha una guaritrice eccezionale. Quando mi ha detto cos'è successo, mi aspettavo che sarebbe finita quasi cieca. Gli incantesimi Sanentur sono piuttosto complicati e specifici. È notevole che abbia avuto la presenza di spirito di distinguere che sarebbe stato appropriato per riparare quel particolare tipo di ferita». «Una fortuna», disse Malfoy in tono blando. «C'è qualcosa che mi consiglia? Ho l'ordine preciso di tenerla in buone condizioni. Non voglio che venga trascurato nulla». «Beh, forse un impacco fresco. L'essenza di dittamo funziona meglio se fresco. Cibo nutriente. Brodi di pollo e simili, per aiutare il corpo a guarire. Lei probabilmente lo sa. Molto bene, disse Malfoy raddrizzandosi e indicando la porta della stanza di Hermione che gli elfi domestici avevano riparato. Il guaritore la guardò di nuovo. Davvero eccezionale, disse con voce pensierosa. Peccato per un tale spreco di talento. E lei, signore, è piuttosto notevole che lei possa eseguire gli incantesimi così bene. Una collaborazione davvero impressionante. Potrebbe essere lei stesso un guaritore. Così continuano a dirmi, disse Malfoy con un sorriso falso. Pensa che il Sammungo vorrà ancora assumermi dopo che ho ucciso qualcuno nella loro sala d'attesa. Il guaritore sbottò. Beh, quello che voglio dire è... Se non c'è altro, l'accompagno alla porta. Lo interruppe Malfoy e uscì dalla stanza. Hermione passò la maggior parte dei giorni successivi a letto. Un elfo arrivava ogni 2 ore con una fiala di essenza di dittamo. La guardava mentre se ne applicava una goccia nell'occhio e poi spariva di nuovo. Dopo 4 giorni, la sua vista nel raggio di un braccio era per lo più recuperata, ma oltre quel raggio le cose diventavano sfocate e faceva male cercare di mettere a fuoco. Malfoy non si presentò più, ma Hermione pensò di aver sentito i suoi passi nel corridoio. Poi arrivò la guaritrice Stroud. «Hai avuto un mese piuttosto sfortunato», disse, evocando il lettino e aspettando che si avvicinasse. Non disse nulla mentre si avvicinava e si sedeva sul bordo. La Stroud tirò fuori una fiala di Veritaserum e Hermione aprì la bocca e accettò la goccia sulla lingua. Le lanciò un incantesimo diagnostico generale ed entrambe lo studiarono. L'occhio di Hermione stava meglio. I suoi livelli di sodio erano normali. I livelli di cortisolo erano estremamente alti. Erano sempre alti, ma c'era un picco troppo marcato. Stroud sospirò e scrisse qualcosa nella cartella prima di lanciare un incantesimo di rilevazione della gravidanza. Hermione sapeva già quale sarebbe stato il risultato. Fissò con attenzione l'orologio sulla parete. La vista sbilanciata le impediva di distinguere i numeri e persino le lancette, a meno che non chiudesse l'occhio sinistro. Ci fu un lungo silenzio, così lungo che Hermione finalmente si voltò e scoprì che la guaritrice Stroud aveva fatto una diagnosi più dettagliata del suo sistema riproduttivo. Hermione non riuscì a distinguere chiaramente tutte le letture, ma ne riconobbe abbastanza per sapere che non c'era nulla di insolito. Alzò lo sguardo verso di lei. Era sfocata, ma riuscì a distinguere la familiare irritazione tesa intorno alla bocca della donna mentre manipolava l'incantesimo con la bacchetta. «Ancora non sei incinta», disse, piatta. Le parole erano più un'accusa che una condanna. Hermione non fece una piega e non sbatté nemmeno le palpebre. La guaritrice Stroud continuò. «Sei quasi l'unica a non esserlo, e nel caso delle altre è perché hanno dei problemi». Ci fu una pausa. La guaritrice Stroud sembrava aspettare una difesa. «Forse anche lei, Riv, ha dei problemi», disse infine Hermione. «Non li ha, l'ho esaminato io stessa, ormai diverse volte. È perfettamente virile e fertile». «Perfino eccezionale!» Lottò per non lasciare che la sua bocca si contorcesse dal divertimento al pensiero di Malfoy che veniva esaminato dalla Stroud. Doveva piacergli, pensò tra sé e sé. Esteriormente rimase silenziosa. La guaritrice sospirò bruscamente. «Come ti prende? Rimani reclinata dopo, come da istruzioni? Ti lavi dopo?» Domande sospettose. Hermione si sentì arrossire, costretta a rispondere. «C'è un orologio lì sul muro. Aspetto sempre il tempo stabilito prima di muovermi. Seguo tutte le istruzioni di lavaggio. Il ritratto può confermarlo. La guaritrice strinse gli occhi. E come ti prende? Ermione fissò intensamente l'orologio sfocato finché la testa non cominciò a pulsarle. Su un tavolo. Cosa? Disse bruscamente la guaritrice. Lui evoca un tavolo al centro della stanza e mi fa chinare su di esso. Ti prende da dietro. Ermione sentì le guance e le orecchie diventare calde. Sì, è molto clinico al riguardo. Quante volte al giorno? Una volta al giorno, per 5 giorni. Ci fu un silenzio. Bene, disse finalmente la guaritrice Stroud. Poi si chinò e batté 2 volte la bacchetta su una delle manette ai polsi di Ermione. Ci fu un'immediata vampata di calore. Un minuto dopo ci fu un colpo secco alla porta e Malfoy entrò, con l'aria più fredda che gli avesse mai visto. Riusciva malapena a distinguere il suo volto mentre camminava verso la guaritrice. Chiuse l'occhio sinistro per cercare di vedere più chiaramente. «Mi hai chiamato?» disse. «Non è ancora incinta», annunciò lei. Malfoy non sembrava né sorpreso né deluso dall'annuncio. «Che sfortuna!» disse freddamente. «Infatti, comincia a diventare anomalo. Non c'è una giustificazione che io possa trovare per spiegarlo». La guaritrice aveva gli occhi stretti mentre lo fissava. Ermione divenne improvvisamente curiosa. Sospettava che Malfoy stesse cercando di evitare di ingravidarla. Lo stava facendo. Perché avrebbe dovuto? Avrebbe dovuto essere impaziente di metterla incinta. Se non per avere un erede, almeno per sperare che la magia potesse finalmente corrodere e rompere quella che proteggeva i ricordi di Ermione. Il Signore Oscuro potrebbe avere motivo di preoccupazione se lei continuasse ad essere infruttuosa. Come sa, il suo desiderio è di natura duplice. Infatti, ne sono consapevole, disse Malfoy, una vena pericolosa nella voce. Allora non dovrebbe avere obiezioni se le faccio alcune raccomandazioni su come aumentare le probabilità di successo. Malfoy inclinò la testa. Qualsiasi cosa al servizio del Signor Oscuro. Allora niente più tavoli, disse la Stroud in tono deciso. C'era un guizzo di qualcosa, forse irritazione, negli occhi di Malfoy. Bene. E deve prenderla in posizione reclinata, disse la Stroud alzando il mento. Con meno distacco. Un ghigno si arricciò sulle labbra di Malfoy, ma prima che dicesse qualcosa la Stroud aggiunse: la gravidanza magica è più complessa del semplice processo biologico della fecondazione. Può richiedere una connessione, altrimenti utilizzeremmo i metodi babbani per lo sforzo di ripopolamento e sarebbe molto più comodo per tutti. Davvero? Tutte le altre surrogate incinte che avete attribuiscono le loro condizioni al legame che hanno con i proprietari, disse Malfoy. Lei è eccezionale nella magia, esattamente come la sua surrogata, disse la Stroud con un'espressione rigida. Secondo alcune teorie, un tale potere fa sì che la scintilla della vita richieda una maggiore persuasione. A meno che non ci sia qualche altra spiegazione che può offrirmi. La guaritrice lanciò a Malfoy una lunga occhiata che lui ricambiò senza battere ciglio. Ne era certa. Sospettava che avesse fatto qualcosa per interferire. Bene. Eccellente, disse la Stroud, la bocca allargata con un sorriso sottile. Dopotutto, il Signor Oscuro è piuttosto desideroso di avere accesso a quei ricordi. Se gli sforzi di concepimento continuassero a fallire, dovremmo trovarci obbligati a considerare altri stalloni. Avevo avuto l'impressione che l'uso di una gravidanza magica per sbloccare i ricordi richiedesse che il padre fosse un legilimens o avrebbe potuto provocare un aborto. disse Malfoy in tono leggermente tagliente. «Questo è vero. La familiarità magigenetica è importante. Tuttavia, non dovrebbe necessariamente essere una familiarità paterna. I fratellastri, per esempio, potrebbero essere un'altra opzione. Ho sentito voci che tuo padre potrebbe essere richiamato in Gran Bretagna». Hermione vacillò e si sentì sul punto di vomitare. L'espressione di Malfoy non tremolò, ma impallidì, visibilmente, anche nella sua visione offuscata. La guaritrice Stroud continuò, e c'era un po' di scherno nella sua voce. «Non ho menzionato l'opzione al signor Oscuro, per ora, ma so quanto sia ansioso di fare progressi. Sarebbe una delusione per me doverlo raccomandare. Come scienziato, devo ammettere che sono particolarmente curiosa di vedere la progenie di due individui così straordinariamente potenti. Ma la mia prima lealtà è verso il signor Oscuro. Quindi se questo particolare accoppiamento sarà ancora infruttuoso dopo 6 mesi, non avrò altra scelta che offrire una soluzione alternativa». «Certo», disse Malfoy, il tono calmo ma con un lato che Hermione riconobbe come fredda furia. «C'è qualcos'altro?» «Nient'altro, Ayriv. Grazie per il suo tempo», disse la guaritrice Stroud. Malfoy girò i tacchi e sparì.